tutti su Sandro Baroni da Salpinaz. Dunque, oggi ascolteremo tre dischi recenti, appena usciti, tre novità. Però c'è una premessa, che Salpinaz sempre è ormai da tempo a considerarsi una trasmissione che ha come ambizione quella di cercare nuovi talenti, nuovi linguaggi di quello che sta accadendo appunto nel mondo del jazz, sia americano che europeo. Non ci si può dimenticare anche dei grandi talenti che poi oltretutto, visto l'età della trasmissione, si sono visti nascere artisticamente fino a diventare delle star, dei mostri sacri non più toccabili, ma che perdono magari anche quella che è una certa gioia nella creatività. Anche gli stessi musicisti che hanno iniziato la loro carriera nell'ambiente dell'avanguardia, della downtown newyorkese, penso ad esempio, e anche questi, molti di questi perlomeno, a un certo punto hanno, come si suol dire, attaccato il cappello, si sono ripiegati più su stili mainstream che riuscivano a dare soddisfazioni maggiori anche da un punto di vista commerciale. I musicisti di oggi sono tutti ormai dei mostri sacri in qualche modo. Il primo è il disco, sicuramente il primo dal quale ascolteremo il brano iniziale, è il lavoro in assoluto più rappresentativo di questo ambiente all star. Si tratta dell'ultimo lavoro, che è firmato da Jack DeJohnette, ma che vede una compartecipazione, visto che sono tutti appunto comprimari, anche di Larry Grenadier alla contrabbasso, da John Medeschi alla batteria e John Scofield alla chitarra. Quindi nomi che hanno, a parte Grenadier probabilmente, che più un sideman molto richiesto perché è decisamente affidabile, ma sia Medeschi, quando ha iniziato un percorso che recupera anche certi linguaggi del pop e del rock per tradurli poi nell'ambiente più jazzistico, e soprattutto che ha recuperato anche il linguaggio dell'organo Hammond, è diventato un personaggio di punta. Naturalmente John Scofield è fin dalla nascita artistica, dalla prima metà degli anni 70, ha iniziato sempre con artisti di primissimo livello, poi si è collegato a tutta l'ultima stagione di Miles Davis, e quindi solo questo basterebbe a giustificare la notorietà. E poi DeJohnette che ha avuto varie stagioni, ultima è quella appunto di leader aperto a esperienze che cerchino anche linguaggi più convergenti, diciamo. L'ultimo lavoro che è uscito è intitolato Hudson, ed è una sorta di antologia di cover. Questa è un po' una caratteristica che ha accomunato molti altri artisti, quello di reinterpretare in modo più orchestrato, ma dei classici del pop, del rock e anche dei classici della storia americana. Naturalmente Hudson, il fiume che attraversa New York, è un simbolo proprio l'americanità, e viene confermato da questo. Sono presenti riletture di Lyle Daley, di brani appunto di Bob Dylan, di Crosby, Stills, Nash, e si ritrovano insomma molte cover, anche suonate con intelligenza, ma rimane questo aspetto formale piuttosto contenuto e accomodante e accattivante. Ascoltiamo il brano di apertura, che è lo stesso Hudson titolato, che è nel quale direi che DeJohnette riscopre molto molto chiaramente, insomma, quello che era il suo drumming dell'epoca di Miles Davis, la ritroviamo qua, appunto, ascoltiamo. Era il quartetto di Dejonette, di Jeff Dejonette, con John Scofield alla chitarra e John Medeschi alle tastiere, un clima decisamente davisiano, quello che viene rievocato dal nuovo lavoro di Dejonette. Un disco intitolato Hudson ed è uscito per la Motema Music. Un'altra novità è quella di firmata da Steve Bernstein, ormai un gruppo classico, quello di Sex Mob, e ormai una ventina d'anni, diciamo, che lavora e che è iniziato tra l'altro come una sorta di gruppo workshop per elaborare il linguaggio alla slide trumpet di Steve Bernstein e poi anche per provare le capacità orchestrali di arrangiatore di Bernstein stesso, questo nella cantina della Knitting Factory a metà degli anni 90. È un gruppo che però si è consolidato specializzandosi soprattutto le cover anche più improbabili, dalle musiche di 007 alle colonne sonore di Morricone, insomma è un repertorio piuttosto eclettico, e l'intenzione di Bernstein era quella di unire una ricerca seria da un punto di vista musicale a quello che era anche una facilità di ascolto, una piacevolezza di presentazione e una forte dose di ironia. Il risultato è sempre stato di buon livello, direi un progetto più riuscito a mio avviso di Bernstein, pur negli anni, e questo ultimo lavoro per me è tra i più riusciti, questo Cultural Capital, che ha anche una particolarità. Tutti i brani sono firmati da Steve Bernstein, quindi viene abbandonata la vena, diciamo, della cover, della rilettura ironica delle varie musiche. I musicisti sono ormai ben consolidati nei propri ruoli, oltre allo stesso Bernstein alla slide trumpet, Brigham Krause al contralto e al baritono ritorno, poi Tony Scher al contrabbasso, basso, chitarra elettrica. E Tony Scher si muove su questi registri di corda, ma a tutto campo, lasciandosi anche una certa libertà espressiva, e alle percussioni e alla batteria Kenny Wallace, quindi un quartetto molto affiatato di amici che collaborano e si conoscono perfettamente. E ascoltiamo alcuni di questi brani che sono tutti abbastanza brevi, quindi anche per dare un taglio della capacità espressiva dello stesso Steve Bernstein, naturalmente. È un disco uscito per la Rex Record, che in sostanza è la casa, nel senso proprio della casa, dell'abitazione di Tony Scher, casa sua. Hanno registrato questo disco che veniva utilizzato per promuovere i concerti e che poi è stato, si è pensato bene di pubblicarlo e di renderlo come disco. Uno dei lavori, a mio avviso, più riusciti di questa formazione, recente, perlomeno, e sicuramente uno dei lavori più riusciti dell'ultimo Steve Bernstein, che ormai da tempo ci aveva abituato a una certa rilassatezza, diciamo, nelle scelte artistiche. Qui dimostra tutte le sue qualità. Un altro disco, anche questo, sono tutti e tre i dischi di oggi, sono stati recensiti con grande entusiasmo dalla critica internazionale, quindi sono tutti numeri uno. L'ultimo di questi è un lavoro condiviso da Kung Wu con Bill Frisell, un incontro non occasionale e neanche solo recente, sono diverse le occasioni nelle quali si sono incontrati. Questo è un lavoro che ha riunito appunto un quartetto di Kung Wu, è dedicato alle musiche di Michael Gibbs, musicista che forse ci si dimentica troppo dell'importanza anche che ha avuto sia come arrangiatore che come compositore. È un musicista che viene dalla Nuova Zelanda e emigra nella Londra della metà degli anni 60, estremamente vivace, estremamente piena di talenti che passavano e che lasciavano traccia, e hanno lasciato una traccia importante anche nelle modalità compositive e nei talenti che hanno poi espresso tutta la musica fino a tutti gli anni 70 del jazz inglese, che poi è diventato internazionale. Penso a Dave Holland, tanto per citarne una, o a John McLaughlin, ad esempio. Michael Gibbs è stato, ed è tuttora poi, un arrangiatore e direttore d'orchestra di ottima levatura, poco conosciuto magari per le sue composizioni. Questo è una sorta di omaggio che gli rende merito, il risultato è eccellente, ma soprattutto per le straordinarie capacità dei musicisti che vi lavorano, parlo soprattutto da parte di Kung Wu e di Bill Frisell, che quando viene giustamente stimolato, correttamente stimolato, riesce ad avere delle qualità interpretative veramente straordinarie. La formazione viene completata da Luke Berman alla batteria e da Ted Poor al contrabbasso. Ascoltiamo un paio di composizioni, appunto, firmate da Michael Gibbs e interpretate da Kung Wu. Thank you. Thank you. All right. era il quartetto di Congou, con la collaborazione molto importante di Bill Frisell, nell'ultimo lavoro intitolato Ballet, dedicato alle musiche di Michael Gibbs. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e le informazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it alla sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.